Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Abbiamo preparato un sacco di argomenti di cui parlarvi e di cui parlare con voi. 800240024, ci potete vedere anche via webcam sul sito di Radio 24 e su Facebook. Detto tutto questo, comunicazione di servizio, saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Molto bene, gli argomenti erano diversi dal ritorno di Gattuso al Milan presentato oggi. Mourinho, Ibra. Mourinho, Ibra, di cui pure parleremo. Poi c'era Bilan, alle ore 13:10. Partiamo dalla voce di Gandini, amministratore delegato della Roma, ieri sera. Quello che Francesco ha dato a questa società, con la sua carriera, con la sua presenza eccetera, continuerà in altre forme e di conseguenza il binomio Totti AS Roma continuerà ad essere con noi. E ora abbiamo una partita importantissima, che è l'ultima partita di questa stagione, ma è la partita decisiva per qualificarci al secondo posto, ed è assolutamente imperativo avere tutte le risorse fisiche e mentali concentrate su questo. Se tutto andrà come ci auguriamo, ci sarà poi ovviamente anche la possibilità di festeggiare ancora in una maniera più completa un grandissimo giocatore, un grandissimo uomo come è Francesco. Allora, tutti gli argomenti erano quelli che avevamo detto, anche queste parole erano, perché alle 13:10 finalmente Francesco Totti ha fatto sentire, se non la sua voce, il suo pensiero attraverso Facebook con questo tweet. Lo leggo tutto. Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l'ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Punto, sempre punto. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa. È una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire, sono pronto per una nuova sfida. Esegesi del testo, Pierluigi Pardo, la lascio prima a te. Sensazioni, exit poll. La mia sensazione è chiaramente è top secret, no? Nel senso che comunque non dice e rimane il dubbio. Così, la sensazione è che sia pronto ad andare a giocare da qualche altra parte. Ti dico la mia sensazione e poi ne parliamo anche con gli ascoltatori, con gli ospiti che abbiamo in scaletta, che rimarrà quella che è, perché non abbiamo avuto il tempo materiale per rivoluzionarla, ma ovviamente è questo l'argomento del giorno. La mia sensazione è che quel potrò indossare la maglia della Roma sta a significare che lui sarebbe voluto rimanere. Il resto, sento solo che il mio amore per il calcio non passa, è una passione, la mia passione talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla mai, vuol dire che continuerà a giocare dove ovviamente non è dato sapere, secondo me non certamente in Italia. Secondo te? Secondo me insomma, è difficile immaginare Totti con la maglia di un'altra squadra. È difficile immaginare Totti contro la Roma, cioè fosse anche Sampdoria-Roma o Verona-Roma. Verona-Roma, vero con Cassano. Verona-Roma. No, ma adesso ho detto le prime due squadre, mi sono venute in mente. Io ho capito, però può essere un lapsus freudiano. No, sì, vabbè, che ne so. Carpi-Roma, se il Carpi viene in Serie A, scegli tu. No, io credo che andrà a fare, non so, una nuova avventura può essere anche fare il dirigente, quindi... In realtà il testo, quello che abbiamo letto oggi, non chiarisce, e devo dire complimenti. No, non, complimenti dal punto di vista della comunicazione, perché non se ci voleva passare appesi, appeso un filo, c'è riuscito perfettamente. Sì. C'è riuscito perfettamente, però la sensazione è che. La sensazione è Miami, la sensazione è una cosa così. La sensazione è una cosa alla Del Piero. È una cosa alla Del Piero, sono d'accordo con te. Allora. Una pennellata in un altro argomento, ma poi abbiamo un ospite che può comunque che interverrà sull'argomento. Allora, ieri la riapertura storica del Philadelphia, la casa nella quale il grande Torino mai perse una partita, e adesso è un piccolo gioiello, la nuova casa del Toro. Urbano Cairo, lo sentiamo. Facemmo una manifestazione pro Philadelphia che io volli fortissimamente, qualcuno non la voleva, ma io la volli fortissimamente, ci venne tantissima gente, arrivammo chiaramente al Philadelphia e poi io dagli spalti, da quello che era rimasto del Philadelphia, dissi non so quando, però vi prometto che io cercherò di essere presidente del Torino fino a quando il Philadelphia non rinascerà. Oggi finalmente siamo arrivati. Quindi potrei anche andarmene, o forse magari qualcuno l'ha fatto perché voleva che me ne andassi a questo punto. No, sto scherzando, sono contento perché è veramente una grande cosa, è una cosa bellissima. Poi vedere questo stadio con la gente che applaude, vedere questo campo, vedere l'altro campo, vedere i pennoni, veramente una cosa bellissima, magica, stupenda. Così Urbano Cairo, il nostro amico, nei prossimi giorni lo disturberemo, lo dico pubblicamente. Urbano, preparati, presidente. Posso dirti pubblicamente, non vedo l'ora di andarci. Cioè, ieri quando ho visto quelle immagini lì ho detto adesso la prossima volta vado a Torino se riesco. Sì, no, io di sicuro, anche se non riesco, guarda, piuttosto... No, dico se riesco ad andare a Torino è la prima cosa che voglio vedere. Perché io anche. E devo anche dire, voi sapete, io sono cairiano, nel senso che sono... che è un personaggio che mi piace e mi piace per un motivo fondamentale, perché secondo me... Ma non è un segreto. Ha investito, comunque sono stati anni, bisogna sempre considerare il contesto, è ovvio, questo non è il Torino che dominava o il Torino dello scudetto del 76. Sai che mi ricordo a memoria la formazione, prima ho chiesto a Giorgio Luca, controlla che la dica giusta, Castellini da Nova Salvadori, Patrizio Sana, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici, allenatore Gigi Radice. Araldo Pecci, buongiorno. Buongiorno, ma l'hai sbagliata in pieno. Non è vero, non dire balle. Non c'era da nuovo giocare al Cesena, c'era Santin, Tegame. No. E comunque il Toro non può perdere come da titolo, esatto. Veramente ho detto una cazzata così grande? No, non è grande, è solo un piccolo errore, ma aspettavo di peggio. Ma scusa Santino, se guardi la foto del gol di Pulici col Cesena, c'è da Nova con la maglia del Cesena che lo guarda. Senti, il gol che posso dire che il calcio certe volte, magari è un ragionamento un po' contorto, però certe volte ci regala momenti di grande simbolismo. Allora, ieri la presentazione del Philadelphia, Mourinho che vince l'Europa League, ma questo va in tono minore, e queste parole di Francesco Totti che si legano tutte insieme, insomma, e Gattuso che torna al Milan, oggi viene presentato come nuovo allenatore della Primavera. Bellissimo. Bellissimo, il Toro non può perdere, scrive come titolo geniale della sua del suo racconto, metà autobiografia, il professor Pecci. Devo dire che ieri quelli che sono stati a Philadelphia sanno che non è solo retorica. Guarda, io quando ho iniziato a fare giornalista sportivo, all'inizio pensavo che ci fosse un po' di esagerazione su tutta la esagerazione retorica sulla storia del Torino, e sono il primo ad alzare la mano perché pensavo che fosse un po' sopravvalutato tutto questo. Poi in realtà, lavorandoci negli anni, ho capito che non è così, che è assolutamente vero, cioè che il Torino ha vissuto per una serie di incidenti del destino, esatto, una e anche qui c'entrano le stelle, che sono quelle che dominano il calcio, Piero. C'è chi la tifa e c'è chi non lo tifa il Toro, però il Toro è una cosa che ha delle peculiarità, è un patrimonio del calcio. Però è vero che delle volte si rischia di cadere nella demagogia, ma resta il fatto, sì, però, Eraldo, che è una storia tu che unica, sei una storia unica. Tu hai vestito poi anche altre maglie, anche se eri quel numero 8, sei una persona di una simpatia estrema, eccetera, però avrei pur provato qualcosa ieri. Allora ti dico, io quando sono arrivato a Torino, avevo 20 anni, facevo il cretino con molta facilità, mi veniva spontaneo. Quando sono arrivato a Filadelfia mi sono accorto che ero arrivato da qualche parte, insomma. Come la prima volta che vai a Parigi, voglio dire, no? La prima volta che vai a Roma, tu vedi che lì c'è stato qualcosa, tocchi con mano e c'era quest'aria, c'erano questi muri, c'erano questi resti che parlavano di una cosa, e qui dovevi stare attento a non cadere appunto nella retorica, però questo, ragazzi, c'è, volenti o nolenti c'è. E credo che se noi oggi parliamo di noi stessi riguardo a questa storia, sbagliamo a parlare del Toro di adesso, di Cairo, di Bellotti. Dobbiamo parlare di quella storia, di quegli invincibili, di quella squadra che poi dopo la chiudiamo, però quello è la nostra casa, lì i nostri genitori nascono dentro la nostra storia, noi nasciamo lì, da lì a Superga probabilmente, invece di morire nasciamo come storia, e poi dopo viene tutto il resto con le difficoltà, le brutture, le bellezze quotidiane. Però quella, ragazzi, il resto è cronaca, storia. Quella è storia. Il resto, bravo, è cronaca, il resto, bravo, è cronaca, bravo, questa, bravo, è storia. Era il daccio. Grazie a voi. Aspetta, no, perché grazie a voi un attimo, perché ti voglio chiedere una cosa sull'argomento del giorno, così come farò con tutti. Sì. Francesco Totti, altra leggenda del calcio italiano, e non è più cronaca, dice: domenica sarà l'ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma, quindi vuol dire che lui sarebbe andato avanti. Fa anche intendere, senza dirlo, che vuole continuare con il calcio. Ma vuoi la mia opinione? Io credo che ci sono certi giocatori che non sono loro, sono patrimonio dell'umanità, del calcio, in un certo senso, non si rendo l'idea. E alla stessa maniera devono preservare, sono momenti che vanno preservati, e credo che quando si comincia a spendere molto di più per le candeline che non per la torta, una riflessione bisogna farla, perché bisogna lasciare un ricordo degno di quello che è stata la carriera. Poi è chiaro che uno deve avere il diritto di giocare finché gli pare, però ripeto, l'immagine che hai è di tutti, tu sei un patrimonio di tutti. A me non sarebbe piaciuto vedere giocare Rivera e Maradona oggi. Perché io voglio ricordare Maradona com'era, insomma, ecco, questa è la mia idea, poi ognuno ha diritto di fare quello che vuole. Eraldo Pecci è un grandissimo anche quando parla, non solo quando portava il numero 8. Adesso sì che ti ringrazio. Ciao Eraldo. Ciao. 800240024, andiamo con il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Allora, avevamo disegnato anche una bellissima copertina sulla finale di Europa League, poi magari ve la faccio sentire, però le 13.10, quanto ha scritto Totti alle 13.10 di oggi su Facebook ha un po' scombussolato i nostri piani. Il professor Paolo Condò è molto più bravo di me, non c'è neanche paragone nel dipingere le immagini, però abbiamo appena parlato con Pecci del Philadelphia, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Sì. Io dico, c'è un forte simbolismo io leggo, perché mi piace leggerlo, un forte simbolismo Gattuso che torna al Milan a casa per allenare le giovanili, lo stesso giorno in Philadelphia che riapre tra mille emozioni, e adesso questo scritto di Francesco Totti, Paolo Condò, che effetto ti fa? Che va nella direzione diversa rispetto ai primi due casi che tu hai citato, perché dicendo, insomma, Totti continua a lasciarsi tutte le porte aperte, e qualsiasi cosa lui decida domenica sera, lunedì o più avanti, non potrà mai essere accusato di aver detto una cosa e averne fatta un'altra, perché lui col messaggio su Facebook di oggi ti dice che non giocherà più, che non potrà più giocare. Non con la potrà, della Roma. Non potrà più giocare, però lui l'avrebbe fatto. Questa è la prima interpretazione. Esegesi del testo. Per quanto riguarda l'esegesi di quanto ha scritto oltre, la mia sensazione è che abbia voglia di continuare a giocare. Sì. E Pardo dice giustamente qualcosa alla Del Piero. Esatto. L'esempio più facile è quello di Del Piero, che andò prima in Australia e poi brevemente in India. Cioè, due tipi di calcio molto distanti, che, nei quali non è assolutamente possibile incrociare la Roma, ecco, perché non esistono competizioni che possano mai mettere contro queste squadre. e per avere ancora il desiderio. Personaggi, Paolo, personaggi però molto diversi. Su Del Piero potevi dire ok, voglia di esperienze nuove, diverse, esotiche, particolari, eccetera. Totti non è lo stesso tipo. Avrà certamente un'idea di dove andrà a finire. Dove vi piacerebbe vedere Totti? Lo chiedo anche ai nostri ascoltatori. Io mi immagino qualcosa di statunitense, no? Pierluigi, dicevamo. Sì, anch'io. Mi immagino qualcosa di lontano, proprio perché secondo me il legame, l'identificazione di Totti con la Roma è talmente forte che immaginarlo avversario mi diventa difficile. E penso che andrà a fare un'esperienza da cittadino del mondo. Mm-hmm. Proprio lui che ha fatto una scelta di grande fedeltà. C'è una componente, se vuoi, psicologica sul fatto che lui non abbia mai lasciato Roma, e qualcuno lo ha anche, tra virgolette, accusato di pigrizia. E probabilmente c'è stato anche questo elemento. Però se noi amiamo il calcio romantico, e lo amiamo il calcio romantico, insomma, Totti è il top da questo punto di vista, come Maldini, come Vietnanetti, insomma c'è un'identificazione profondissima, di un legame profondissimo. E quindi francamente, insomma, non riesco a immaginarlo, ripeto, in un'altra squadra. Poi prima Pecci ha detto una cosa bellissima, ha detto è un monumento del calcio italiano ed è un patrimonio di tutti. Quando le candeline sulla torta dell'addio cominciano a diventare troppe, bisogna spegnerle, è il momento di spegnerle. È stata un'immagine molto azzeccata, molto bella quella di Eraldo Pecci. È chiaro che Totti preferiamo ricordarcelo così com'era, è chiaro che lui ha voglia di giocare. Mi sembra altrettanto evidente, leggendo queste parole, che non rescinde il legame con la Roma, quindi prima o poi lo vedremo tornare lì, magari da dirigente, magari c'è già un accordo preso, e così sarà. Al di là dell'argomento Totti, su cui poi torneremo anche con gli ascoltatori e con i nostri ospiti, caro Paolo Condò, dimmi. Ieri uno dei due duellanti ha fatto il vecchio mago all'opera ieri. Ha fatto il tripletino in una stagione in cui l'abbiamo spernacchiato, lo hanno spernacchiato, e anche giustamente per quanto aveva fatto a Manchester, a parte il fatto che nessuno aveva mai vinto al primo anno allo United, però sai, ci sono poche riprove perché Ferguson ha disegnato un'era. Lui ha vinto Community Shield, Coppa di Lega e ieri sera l'Europa League. Allora, secondo me è corretto dire che ieri sera ha salvato la stagione, però ha fatto una cosa alla Mourinho, cioè di solito quando si dice salvare una stagione vuol dire che con un ultimo risultato strappi il 6 meno meno. Sì. Invece lui è passato da quello che era un 5 pieno a un 7 e mezzo. Sì. E questa, in 90 minuti lui si è portato a casa 2,5 voti, secondo me, almeno. Perché alla fine lui ha vinto l'Europa League. Con l'Europa League accede senza passare per i preliminari alla Champions, fa dimenticare il risultato del campionato e dà un grandissimo valore a una partita amichevole con l'Ester chiamata Community Shield, che è stata giocata, ormai ce ne siamo dimenticati, sì, quando il 10 agosto, forse anche prima, e poi la vittoria in quella che è la seconda Coppa d'Inghilterra. Però fa benissimo ad agitare il numero 3. Uh-huh. E a ricordare che comunque lui, il Manchester United non aveva vinto più nulla da Ferguson in poi. Lui ha vinto questa Europa League e devo dire che ieri l'ha vinta con una magistrale interpretazione alla, sì, Special One, nel alla senso che lui ieri si è trovato in una situazione tattica evidentemente a lui molto congeniale. C'è una squadra contro una squadra giovane piena di talento, ma con l'inesperienza e la dissennatezza dei ragazzini, li ha sculacciati. L'Ajax. Ecco, anche, sì, era grande favorito lo United, su questo non, beh, questo non, era non bisogna. Grande, era grande favorito del torneo, cantando Zlatan Ibrahimovic. Sì, nel momento in cui perde Zlatan Ibrahimovic, resta davanti. Ma non è più così grande. Sarete d'accordo? Mentre l'elenco degli allenatori più vincenti di trofei UEFA non è comandato da Mourinho ma da Ancelotti con 7. Poi ci sono Ferguson e attenzione Trapattoni con 6, 5 ne ha Guardiola, 4 Mourinho di trofei UEFA. Però sarete entrambi d'accordo, Pardo e Condò, sono d'accordo su 7,5 Mourinho, ma sarete anche d'accordo sul fatto che il voto all'altro dei tuoi due cari duellanti, Paolo Condò, per citarti. Sì, grazie. Per quanto riguarda invece Guardiola, il voto non arriva alla sufficienza, o sì, Pardo? No, per Guardiola il voto non arriva alla sufficienza. Largamente insufficiente. Cioè, sì. 4,5? Beh sì, 5 insomma. C'è cioè una qualificazione alla Champions League che veramente mi sembra il minimo sindacale, però in relazione al budget, alla qualità oggettiva della squadra e al... Poi sai, la qualità oggettiva della squadra in Inghilterra è parte del lavoro di un allenatore, perché sappiamo che l'allenatore ha una responsabilità anche manageriale, quindi... Chiaro che non tutti hanno lo stesso budget, però come spendi i soldi è qualcosa che magari in Italia puoi pensare che sia completamente o comunque in maniera sostanziale decisa dal presidente. Lì hai un ruolo, cioè lì hai un ruolo anche proprio formale di chi si deve occupare della gestione dei soldi e del mercato. Quindi secondo me il Manchester City era meno forte di come lo immaginavamo, però questo non è una scusante per Guardiola. E onestamente è stato anche in diverse occasioni piuttosto brutto, anche a te è capitato di raccontarlo. Paolo, sei d'accordo sul 5 a Guardiola? Sì, possiamo discutere fra 5 e 5,5, ma insomma la sostanza del discorso è quella che ha detto Pierre. È stato deludente il suo approccio all'Inghilterra, però io mi tengo, devo dire che mi tengo il pronostico che feci all'inizio della stagione fra i due duellanti. Sì. E cioè, devo dire, pensando che comunque avrebbero entrambi combattuto per la Premier, cosa dalla quale il Manchester è uscito subito, il City è uscito dopo la sconfitta in casa contro il Chelsea, quindi all'inizio di dicembre mi pare. Pensando che avrebbero entrambi combattuto per la Premier, il mio pronostico all'inizio della stagione fu: il primo anno vincerà più Mourinho, ma nel triennio poi vincerà di più Guardiola. Quindi io mi tengo. Ci ho indovinato per quanto riguarda il primo anno, sì. Però ripeto, non me lo appunto come medaglia perché pensavo che la Premier rientrasse in questo discorso. Ma resto abbastanza convinto che il tridente giovane impostato da Guardiola, cioè Sterling, Gabriel Jesus e Sané, possa avere nelle prossime stagioni un decollo verticale, perché c'è una grandissima qualità. È stato, secondo me, Guardiola ha commesso due errori essenzialmente: quello di scritturare dei difensori impresentabili, sì, perché alla fine si sono arrivati impresentabili, e di puntare tutto per quanto riguarda l'organizzazione della manovra su un giocatore grande ma purtroppo di cristallo come Gundogan. Hai ragione. Lo sapevi che Gundogan lo sapevi che era un giocatore a forte rischio. Sapevi che c'era il rischio e questo rischio è corso e non gli è andata bene. Grazie Paolo. Ciao a tutti. Ciao, a presto Paolo Condò. Ci fermiamo per la borsa, subito dopo torniamo. Viene Belinazzo, ma continueremo con gli ascoltatori, con il tweet di Totti. Parleremo di col mercato, ma parleremo di molte altre cose, insomma. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. E tutti convocati riparte dal nuovo padrone del calcio, che è Marco Bellinazzo. Altro che il suo libro I nuovi padroni del calcio, il nuovo padrone magari, del calcio. Magari, è lui. Pardo, lo sai anche tu, no? Perfettamente, che è il nuovo padrone del calcio. Stiamo parlando. Sai, la professionalità alla fine, eh? La professionalità. Certo. Seguire le cose. Il nuovo padrone del calcio. Senti, mentre ti passo il tweet di Totti e ti invito a fare l'esegesi del testo, invito anche te a fare l'esegesi del testo. Io lancio due ascoltatori che sono Donato e Alessandro. Buongiorno, Donato. Sì, buongiorno, Carlo. Buongiorno a tutti. Dica. Io, per quanto riguarda Totti, volevo lanciare una provocazione che poi magari tanto provocatore. Provochi. Da milanista. Dico che mi piacerebbe vedere Totti magari per un anno giocare con noi. Nel senso che potrebbe essere una cosa che fa bene a tutti, fa bene a lui, fa bene a noi, in una fase di rilancio come la nostra, noi poi, nonostante questi anni un po' così deprimenti, però abbiamo il palato fine, quindi vedere qualche giocata di Totti da noi a San Siro in Europa League, in Coppa Italia, nelle magari anche in campionato, dove potrebbe servire. È una bella fantasia, potrebbe essere una cosa che è una bella fantasia, sì, che credo sia rimarrà un sogno proibito. Sentiamo anche Alessandro da Grossete, poi Pardo e Bellinazzo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno gente, buongiorno Pardo, grazie per la convocazione. Dunque, su Totti, io vorrei capire perché, e mi limito alla Roma, non voglio citare casi di Maldini, Del Piero, eccetera, eccetera. Ognuno guarda a casa sua. Sì. Ma perché tutte le belle storie debbano sempre avere debbano sempre finire male. Potrei citare a suo tempo i casi di Falcao, di Bartolomei, di Bruno Conti. Mi piange il cuore, dico la verità. Sì, francamente, quel potrò indossare, quando avrebbe potuto scrivere per l'ultima volta, è una parola scelta non a caso. Anche con Maldini non finì benissimo al Milan, per motivi che sappiamo che sono diversi, ma comunque lei ha ragione da questo punto di vista. Credo che anche Pardo sia d'accordo. Sì, no, sono d'accordo. A proposito della suggestione di prima, è ovviamente una bella fantasia, come hai detto giustamente tu. È chiaro che i tifosi del Milan ne hanno visti tanti di grandi campioni, e non è un segreto, perché l'hanno confessato tutti, che Berlusconi nel suo passato aveva pensato a Totti, ma non lo prese per una forma anche di rispetto. Sì. I maliziosi direbbero forse di calcolo elettorale, invece gli ingenui e i naif come me dicono per una questione semplicemente di rispetto, perché una bandiera di una squadra così profondamente connotata con una città, e ovviamente con quel pezzo di città che ti fa Roma, è giusto ed è bello che rimanga sì, da quella parte. Certo, Berlusconi l'ha confessato candidamente, io tendo a credergli, penso che quella roba lì fosse veramente una cosa che non si poteva fare. Però io non lo so, nel senso che la dimensione di Totti è difficile da collocare, integro fisicamente, è ancora uno che con i piedi fa delle cose meravigliose. Sì, però non credo che voglia, ti ripeto, io non penso che voglia indossare un'altra maglia italiana, ne sono abbastanza certo. Magari anche a Bellinazzo potrebbe piacere vederlo nel Napoli, cosa che non accadrà mai, io penso. Ma io credo che davvero siano aperte tante strade. Magari è più semplice vederle aperte verso l'estero, sì, gli Stati Uniti, quello che pensiamo noi. Da pensare, insomma, quello che pensiamo noi, piuttosto che un'opzione, ecco, italiana, che voglio dire avrebbe avuto tante altre occasioni per vestire altre maglie, insomma, se avesse voluto nella sua carriera. Non credo che poi è chiaro che magari rimarrà aperta la porta di un futuro come dirigente a Roma, cosa che gli volevano fare subito. Monchi ha detto: non vedo l'ora di lavorare con Totti. Però anche per quello tu lo sai benissimo, Marco, cioè non si diventa dirigente di calcio soltanto così, no? Perché credo che serve una scuola. Una scuola, non serve soltanto, anche del talento, anche serve del talento. Del talento, dell'abilità, dell'essere portati a fare bisogna qualcosa. Bisogna acquisire una professionalità, insomma, che non si può più improvvisare nel calcio di oggi. Sarei curioso di sapere se magari, non so, ha sentito Del Piero, per esempio, che tanta esperienza all'estero ha fatto in queste settimane, sì, se ha avuto qualche feedback positivo, come immagino, insomma, perché vivere altri calci, soprattutto vivere il calcio globale che si sta trasformando potrebbe essere una scuola, ecco, in cui imparare rapidamente come fare il dirigente. Vale anche per altre aziende. Qui al Sole 24 Ore abbiamo 1000 master anche per gente che il manager lo fa già di professione, assolutamente, che viene ad aggiornarsi. Cioè è chiaro che ormai le squadre di calcio sono grandi aziende. A proposito, senti, ti chiedo questo che interessa anche a Pardo, perché ci lavora lì. E quindi continuerà a fare le telecronache, io immagino, assemblea di Lega Diritti TV, dove vedremo sto benedetto calcio 2018, guarda, 2021? Qui si stanno scontrando due grandi filosofie contrapposte, quelle che porterebbero a tutelare comunque il cliente, il consumatore, e chi invece vorrebbe tutelare di più il prodotto, nel senso che più tuteli la Serie A, più garantisci, appila la Serie A incassi, più si possono acquisire, diciamo, giocatori. Bene, per esempio, c'è il problema di capire che se questi benedetti pacchetti su cui la Lega, appunto, l'assemblea dovrà pronunciarsi, devono essere come sono oggi per piattaforma, quindi satellitare, per Sky, digitale terrestre, e poi c'è la parte online, oppure privilegiare il prodotto. Privilegiare il prodotto che significa? Che, come avviene per esempio in Inghilterra, si fanno dei pacchetti, per esempio, per le partite, per il Monday night, per le partite delle 14 del lunedì, per le partite delle 15 della domenica. Sto quindi questa è la decisione preliminare alla vendita. Esatto, in questo caso, se tu decidi di sposare la linea della piattaforma, chiaramente tendi a tutelare di più il cliente finale, perché ciascuno di noi avrà come fruttore un suo abbonamento. Sarà come adesso. Esattamente. Se scegli il prodotto, potresti avere che magari per vedere le partite della tua squadra, tutte le partite, magari alcune partite in una certa fascia oraria sono state prese da una TV, altre in un'altra fascia oraria sono state prese da un'altra TV, e a quel punto dovresti avere più decoder, pagare di più, certo, non verresti tutelato, certo, verrebbe certo magari tutelato, come è avvenuto in Inghilterra o in Germania, chi, diciamo, acquisisce questa decisione quei soldi. Quando l'avremo, giusto per essere chiari? Beh, l'assemblea dovrebbe dare una linea chiara. L'antitrust ha sposato la tesi della piattaforma, chiaramente, perché guarda al consumatore, sì, finale. Ora, sì, vedremo se queste linee guida saranno recepite in toto, sì, dall'assemblea, e quindi oggi dovremmo avere già una prima oggi risposta. Potremmo avere una risposta. Si potrebbe avere una prima risposta, si dovrebbe avere, anche perché i tempi sono piuttosto stretti ormai. Sì. E quindi mi auguro che ci sia già. Se magari sarà rimandata di qualche settimana, ormai ci siamo, bisogna capire bisogna vuole capire procedere il nostro calcio. Ok, perfetto. Ci vediamo per il traffico, 800 24 0024, numero verde, vi aspettiamo. Siete tutti convocati, siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, ad Angelo Mangiante, che oggi è la superstar assoluta dei teleschermi di Sky Sport, posso rubare soltanto pochi secondi. Angelo, come è stato preso questo scritto di Totti a Roma? Ciao a che tutti. Che cosa stai raccontando da tutto il giorno e racconterai per tutta la notte a Sky? Ma allora, intanto vi dico subito retroscena: la società era all'oscuro del contenuto del messaggio di Totti, sì, che rompe un silenzio che durava da una vita, no? Questo non mi sorprende. Fa sempre tanto rumore, però a Roma, perché hanno tutti parlato di lui, ma lui non aveva ancora parlato. Il fatto che scelga un messaggio scritto, quindi vuol dire scritta manent verba volant, non è casuale. Perché? Perché Totti si lascia tutte le porte aperte. Totti si mette alla finestra, dà solo una certezza in questo messaggio, che domenica sarà l'ultima partita in cui potrà indossare la maglia della Roma. Però attenzione, perché lascia aperte due porte. Una per fare ancora il calciatore un altro anno, e non è cosa da poco, non in Italia chiaramente, però si mette alla finestra da lunedì se dovesse arrivare offerte. Quali? Ne cito una, non l'ho verificata, non so se verrà, ancora non è arrivata. Maradona, che allena negli Emirati Arabi, che ha detto che è il miglior calciatore che abbia mai visto giocare, e se arriva un'offerta da lì, non lo so, può arrivare pure un'offerta da 20 milioni di ingaggio. perché Totti dice: sento che il mio amore per il calcio non passa, è una passione talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Sì. Ultimo passaggio: da lunedì sono pronto a ripartire, sono pronto per una nuova sfida. Non dice una nuova sfida con la Roma, altrimenti avrebbe chiuso tutto. Potrebbe essere anche la Roma, potrebbe anche essere la Roma, però da lunedì, dopo 25 anni di calcio, si mette alla finestra e valuterà se eventualmente la nuova sfida sarà a fianco di Monchi, da scolaretto che spera di fare poi il dirigente per altri 6 anni con una certa funzione che non sia quello da tagliatore di nastri, tanto per intenderci, oppure può fare anche un altro ruolo. Ne cito uno, il suo più grande amico nel mondo dello sport è Malagò, numero uno dello sport italiano, che sa che nel mondo i due sportivi più popolari sono Valentino Rossi e Totti, e magari potrebbe anche farne l'ambasciatore dello sport italiano nel mondo. E ci hai dato tante notizie. Lasciaci con una tua sensazione. Guarda, sono Pier, sta lì, no? Pier sta lì. Ciao grande Pier. Pier sa quante volte ho pronunciato il nome di Totti, no? Anzi, lui fa l'imitazione sicuramente migliore di quello che vi sto dicendo io. La tua, non quella di Totti. La mia, esatto, me l'ha fatta tante volte, è bravissimo. Io credo che lui realmente non abbia scelto. Ci ho parlato tante volte, non ha scelto, e sono contento che si prenda un piccolo periodo per scegliere, perché quello che poi farà è giusto che lo faccia con il piacere di farlo, non perché c'è già un contratto firmato da 6 anni da dirigente. Perfetto, Angelo, ti lascio ai teleschermi di Skype perché immagino che stia già squillando il telefono. Grazie ad Angelo. Ciao. Com'è l'imitazione di Mangiante, Pardo? Eccoci dunque, è il giorno della verità, è il giorno di Capitan Futuro. Lui ha questa cosa, no? Questo intercalare, quasi questa smozzicatura. Eccoci, e dunque sta arrivando. C'è ancora Angelo? Sì. No. Come no? No, l'abbiamo lasciato andare, perché figurati, è tutto il giorno che sta lì in video. Di solito vado a fine partita, vado e gli faccio il pezzo, cioè faccio finta, no? Il pezzo a braccio, quello. È stato il giorno più importante, il giorno della verità, la Roma si ritrova nel momento più difficile, eccetera, eccetera. No, è molto, molto spiritoso, molto. Quella di Belinazzo non è ancora studiata, vero? Berinazzo è complicatissimo, è complicato. Però lavoraci. La mia preferita è quella di Cappello. Posso dirti quella di Cappello, è quella che più mi fa pisciare. È quella di Cappello. Francesco mi chiama e gli dico di studiare la dirigente. Comunque, quella che dice Angelo, tornando seri, è molto interessante. Sì. E in qualche modo si conferma una cosa, cioè che Totti ha davanti a sé una gamma di scelte molto profonda, anche se in realtà oggi una piccola notizia se la dà, oltre al fatto che non giocherà più con la maglia da Roma, il fatto che continuerà a fare calcio. Sì, Totti, che non uscirà Totti dal mondo del calcio. Sì, e mi sembra che da quel post su Facebook, sia pure piuttosto laconico, è una posizione di molto attiva. Molto attiva. Quella che si paventa, no? Cioè sì. No, fare l'opinionista no, anche Malagò, che è molto interessante, molto intrigante. Io continuo a pensare lo vedremo da qualche parte del mondo di nuovo su un prato. Ragazzi, chiudiamo con la sfiga, vogliamo? Che ci vede benissimo. Vai. La sfiga, sai perfettamente dov'è la sfiga della domenica. È in Palermo Empoli, perché c'è questa storia del paracadute. Sì, gli è arrivata la caduta che si intreccia con il calendario, nemmeno, dannato calcio, nemmeno a volerla fare allora, apposta. Sappiamo perfettamente così. Che questa partita la sfiga ci vede benissimo. Bene. Però, guarda, c'ha degli occhiali che sembrano binocoli. Allora, Palermo Empoli, Palermo già retrocesso, Empoli che lotta per la retrocessione. Se retrocede il Crotone, l'Empoli prende 25 milioni, se retrocede Palermo e Empoli prendono 25 nel caso in cui retrocedessero insieme al Pescara, con i 10 che vanno al Pescara, mentre se il Palermo dovesse essere in compagnia delle due squadre appena salite in Serie A, quindi Pescara e Crotone, le due squadre che ho appena nominato prenderebbero 10 milioni a testa. Il Palermo si metterebbe in tasca 25 milioni più la possibilità, qualora non risalisse subito in A come poi ha fatto il Verona, potrebbe avere altri 15 milioni. viceversa, se dovesse salire subito in acqua, i 15 milioni se li spartiscono i club di Serie A l'anno prossimo, insomma. Morale, evidente, il Palermo ha tutto l'interesse a non vincere questa partita. Teoricamente no, anche perché il Palermo è una situazione peraltro complicatissima, perché il famoso Baccagnini che girava per Palermo è sparito all'orizzonte. Zamparini pare abbia già contattato qualche allenatore, qualche dirigente per fare il Palermo del futuro, mentre fino a due settimane fa aveva dato l'addio. Quindi non si capisce chi comanda, non si capisce quale sarà il futuro del Palermo. L'unica cosa è certa che se c'è un ragioniere, beh, potrebbe consigliare come dire, alla squadra una scelta anziché l'altra. Dopodiché è evidente che insomma sul campo succederà quello che deve succedere. Succederà quello che deve succedere, però come diceva Pierluigi, la sfiga ci vede benissimo. Ciao Pardo, grazie. Ciao Marco, grazie. Ci sentiamo alla prossima. Noi invece rimaniamo collegati, oltre che per tornare a parlare di Totti, per parlare di Giro d'Italia, per parlare di Napoli e di quello che è successo ieri in questa cena strana tra Reina, la moglie di Reina e De Laurentiis, insomma, vi aspettiamo, dai, state con noi. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, ricominciamo tutti ai vostri posti e andiamo. Tutti convocati. La tappa domani è una tappa di quelle che ti consumano, quindi che poi contano veramente le energie finali per un finale con una salita così, un arrivo un po' inedito. E cercheremo di dare la giusta interpretazione, non sarà semplice, sicuramente Nairo anche lui vorrà fare qualcosa, quindi questo poi lo vedremo domani in gara. È chiaro che in corsa possono nascere delle alleanze, perché abbiamo lo stesso tipo di obiettivo, quello per la classifica generale. Non sarà semplice, Tom ha un grande vantaggio e ancora la crono dalla parte sua, come ho detto diverse volte, no? Quella di Milano, quindi bisogna tentare, bisogna provare, se si ha la forza di poterlo fare, poi bisogna farlo, perché sennò può rimanere il rammarico. Così Nibali dopo la tappa di ieri, quella di oggi, Moena Ortisei, è quella che potrebbe invece consegnarci il vincitore del Giro d'Italia numero 100, vero Piero Augusto Stagi? Moena Ortisei. No, non ce la consegnerà. Non ce la consegnerà. No, oggi no. Pronto a essere smentito, ma credo che non c'è. È lunga. Sarà difficile logorare questo olandese, occorreranno tutte e tre le giornate. Io vi dico che il giro si deciderà sul grappa, esattamente dopodomani. Oggi si comincia il lavoro di demolizione, si cerca di ultimarlo. Di demolire Dumoulin. Certo, adesso l'operazione è quella di demolire Dumoulin. Bisogna poi recuperare, parlando di Vincenzo, il minuto 12. In più, entro sabato bisogna portare a casa un altro minuto al minuto. Meglio un minuto e mezzo, perché c'è sempre la cronometro finale, quindi in totale 2 minuti e mezzo. Non è facile, no. Non è facile neanche per Quintana, quindi giustamente Vincenzo parla di alleanza, perché l'interesse di Quintana e quello di Nibali sono uguali, convergono e sono quelli di mettere nel sacco l'olandese, perché sennò l'olandese riderà e sarà l'unico a questo è chiaro, devo metterlo in una tenaglia, ma lo sa benissimo Nibali, lo sa benissimo Quintana e l'ha anche detto Nibali. Escludi una decisione a cronometro contro Le Montre l'ultimo giorno con l'arrivo a Milano? No, no, no, no, ahimè non lo escludo, è uno spettro per me, uno spettro per Vincenzo, uno spettro soprattutto per Quintana, che va ancora almeno formalmente, visto quello che ha fatto vedere anche nella crono di Montefalco, va anche un più piano di Vincenzo, però c'è terreno per poter fare qualcosa. Sai, adesso non voglio mettere le mani avanti, però è vero, questo è un giro d'Italia, Carlo, che ne ha fatto qualcuno qualche anno fa, e da tanti anni che non facevo un giro d'Italia asciutto, e questo non favorisce chi deve attaccare, chi deve recuperare, ma favorisce chi al momento può controllare, giocare di rimessa, e soprattutto sa di avere a propria disposizione un bonus alla fine. Sì. In questi giorni, nelle prossime giornate, è dato sole, quindi strada asciutta, temperatura mite, oggi ci sono 15 gradi, quindi si può pedalare molto bene. Ci sono le condizioni ideali per poter difendere. Ecco, Vincenzo e Nairo, mi auguro che Nairo si svegli, perché sta letteralmente dormendo in questo giro d'Italia, e diventi almeno per un paio di giorni alleato. E poi sul grappa che si e poi, e poi lì faccia a faccia, non c'è storia, Pier Augusto. Cosa sta succedendo per chiudere? A che punto siamo dal punto di vista allora, della cronaca? C'è in atto una fuga di 19 corridori, si è mossa la Bahrain Merida di Vincenzo, ha messo il suo uomo a tirare, ha messo un uomo nella fuga di testa che è Succi, Nairo Quintana ne ha messi due, logicamente la maglia rosa invece li ha tutti i cinesi. Io credo che adesso si scatenerà la bagarre, perché bisogna provare sull'ultima asperità, che questo è il passo di Pinei, che non è conosciuto, ma è tosto, vi assicuro che è tosto, dove lì si può fare una differenza, lì si può non decidere il giro, ma almeno portare qualcosina via, anche perché quello che mi ha molto così un po' scoraggiato, ma credo un po' tutti, è che nella grande giornata di Vincenzo l'altro vincitore è stato a tutti gli effetti Tondi di Ben. Certo, quella giornata è stata una giornata stratosferica, dove ha dimostrato da solo di tenere il passo dei migliori in salita, ma soprattutto nei tratti di discesa è andato forte quanto e come, se non di più, di Vincenzo. Quindi attaccarlo anche in discesa, e Vincenzo ci riproverà, e io che conosco molto bene, ma chi la conosce bene meglio di tutti, Vincenzo, il grappa è una salita veramente tosta, con una discesa molto tecnica. Lui li vinse nel 2010 quando il traguardo era ad Asolo, lì ha fatto diverse gare, sono sempre andati piuttosto bene. Io credo che oggi comincia la grande battaglia e terminerà solo e soltanto sabato sul grano. Grazie per Augusto, ci sentiamo più tardi. Grazie a te, Carlo. Ci sentiamo più tardi, ovviamente appuntamento con il GR, perché lo monitoriamo da vicino fin dall'inizio questo Giro d'Italia. Massimo dalla provincia di Varese, buongiorno. Ciao Genta, ciao. Complimenti alla trasmissione. Grazie. Un'entrata gamba tesa per a gamba tesa su chi? Su me? Su no, su. Peccato che non c'è più Pardo, perché sennò l'ottimo Pardo l'avrei entravamo a gamba tesa su di lui. Entravo su di lui per alcune frasi, per questo processo di beatificazione su Totti. Di Totti io non ci sto per la rappresentazione di questa di questo grandissimo calciatore, che tecnicamente non mi permetto di discutere, ma sulla sua storia io penso che non sia un personaggio da tramandare come esempio ai nostri ragazzi. No, ma a parte posto che io non tramanderei come esempio nessun giocatore, nessuno sportivo ai nostri ragazzi, questo l'ho detto mille volte, ma va a cosa bene, ti riferisci? Detto questo, ma un po' la storia di Totti parte da un calciatore che in campo non si è mai espresso in modi molto civili, fino a quando il signor Costanzo lo prese un po' sotto la sua ala e ne rivide un attimino l'immagine, grazie a quell'operazione che fu il libro delle barzellette, che secondo me il buon Totti manco si sognava. Massimo, permettimi, ma ne ho visti molto peggio, cioè, ne ho visti di molto peggio rispetto a Totti. È chiaro che abbiamo nella sua lunga carriera degli episodi, mi viene in mente il calcio a Balotelli, me ne vengono in mente un po', insomma, però non mi è sembrato un attaccabrighe o un giocatore scorretto o tutto questo, insomma, secondo me insomma, io non vedo un Totti cattivo. Non so a cosa ti riferisci tu, al di là delle barzellette di Costanzo, eccetera, eccetera. Dove vedi il Totti cattivo? Mi ricordo qualche sputacchio di troppo, mi ricordo, sì, insomma, qualche lo sputacchio di troppo, certamente. Che altri campioni non hanno mai avuto. Detto questo, il ruolo della bandiera nel calcio moderno, quando ormai un calciatore ormai è un'azienda con l'ufficio stampa e quant'altro, quando i signori Del Piero, Totti, eccetera, eccetera, finiscono una carriera in una stessa società che li ha remunerati per cifre superiori ai 100 milioni di euro nella sua storia. Poi mi puoi dire, Totti poteva andare al Real Madrid in un determinato periodo, poteva prendere qualche milioncino in più, è vero tutto, però questa maglia cucita sulla pelle del romanista inside, io ci credo fino a un certo punto. Massimo, dai. E lo dici, e te come, lo dice uno. Ma scusa, ma come ci credi fino a un certo punto? Cioè, poteva andare dove voleva, quando voleva e quando avrebbe guadagnato anche di più. Cioè, è rimasto... Ma scusa, cosa vuol di più? È rimasto lì tutta la carriera. Che deve fare di più? Non ho capito. Solo per amore. Solo per amore, magari anche un po' per pigrizia, perché per non muoversi dalla sua città, e questo è magari il rimprovero che possiamo fare, e quello lo condivido a Francesco Totti, perché c'è stato un momento in cui avrei provato, fossi stato in lui, non fosse stato per amore o solo per amore, ad andare ad esempio al Real Madrid e vincere qualche trofeo e magari diventare il più forte calciatore del mondo. Non so se condivide questo discorso mio amico Raffaele Auriemma da Napoli. Ciao Raffaele. Salve, buongiorno a tutti. Cioè, salve. Più bandiera di così se muore, di Totti? Grande nemico sportivo del Napoli. No, che nemico. Sportivo. Un grandissimo rivale, uno dei più grandi calciatori che io ammiro da tempo nella storia del calcio italiano, credo che ci siano lui e pochi altri al suo livello. Però voi che dite, che smette davvero di giocare con la Roma? Di giocare con la Roma? Sì. Smette? Di giocare con la Roma, sì. Ma domanda, se dovesse essere davvero Eusebio Di Francesco il prossimo allenatore, quindi si gioca questa grande chance sulla panchina giallorossa, una big... No. Lui che ha giocato con Francesco Totti, non è che gli può venire in mente di chiedergli: scusa Francesco, non dico di scendere in campo, ma lo vuoi fare il mio vice allenatore? Sei seduto con me in panchina. Vice allenatore? No, perché prima ci hanno aperto un ventaglio di soluzioni, no? Mangiante ci ha aperto un ventaglio di soluzioni, tra cui andare all'estero. Andare a lavorare con Malagò al CONI, oppure rimanere alla Roma a fare dirigente con Monchi. Ma lui è calciatore, lui vuole respirare ancora il campo. E quindi allora, dici potrebbe fare vice allenatore? Dico vice allenatore, dico uno che è nello spogliatoio come capitano, non giocatore, un po' come era Ciro Ferrara ai mondiali del 2006 con Ma Lippi. Senza la divisa addosso. Credo che sia un dettaglio a quel punto, per lui interessa stare lì, essere nella squadra. Ora, che lui abbia ancora velleità di giocare tanto, secondo me, io spero per lui che lo escluda, perché comunque l'età però se va in America gioca. Ma che gliene frega di andare in America? Ma ha bisogno di andare in America per far che? Per giocare. Se ha voglia ancora di giocare, l'hanno fatto in tanti. Partite di calcetto, glielo organizzo io qualche partita di calcetto. Glielo organizzo. Dai, Totti deve rimanere Totti, quello che noi abbiamo conosciuto. Non può dissolversi nel calcio degli Stati Uniti. Totti e Totti. Ho capito, ma poi torna magari studia da dirigente o da vice allenatore. Non lo so, tu mi hai dato, ma che mi sembra molto interessante. Scusa, così come molto. Che fare il vice Monchi, penso che lui preferisca fare il vice di Francesco, perché forse può incidere un po' di più, eh. Questa può essere un'altra chiave di lettura del dottor Raffaele Auriemma, che invece interrogo su questa vicenda tra gossip e spettacolo cinematografico, che a Napoli non manca mai. Ieri sera cena di gala del Napoli, De Laurenti si avvicina a Reina e signora e dice: tu stai attenta a tuo marito. Lei la prende malissimo. E poi scattano questi due tweet di la vera eleganza, restare indifferenti di fronte a gente che vale poco, il tweet di Reina e il post della moglie: quando chi comanda perde la vergogna, chi obbedisce perde il rispetto. Hai fatto un riepilogo. Riepilogo, sì, rapida sintesi. Che vuoi sapere? Che è successo? Sono presi a botte le reine della che ne so, tu come la leggi? Gogliardate mai riuscite della Laurentiis, incontinenza verbale, come la leggi? La leggo così. I tweet diventano di tutti, vanno in tutto il mondo, tu lo sai meglio di me. Sì, ormai siamo abituati, lo sappiamo. Però io la leggo in questo modo e credo che sia la cosa più logica quando si parla di De Laurentiis. Non è la prima volta, perché il presidente nelle cene di fine stagione si lascia un po' andare, così, perché è fatto così, prendere o lasciare, non è fatto così. Ha tanti pregi e ha questi difetti. Sì. Io ricordo una volta in una cena di questo tipo qui, rivolto ad un calciatore di nome Marco, non dico il cognome, leggendo un po', lui scrive i pensierini per ognuno. Adesso mi faccio venire in mente, insieme a Giorgio De Luca, ha chiesto Marco, Però dico, si chiama Marco. Vabbè. Allora, arrivando a Marco, De Laurentiis si disse: per lei ho pensato una frase di Gianluca Vialli: la mattina, se sono triste o rabbuiato, chiamo in banca e mi faccio dare il saldo. Sì. Donadelli, quello è il calciatore. Sì. È inutile che siamo lì. Stiamo lì. Chiami in banca e si faccia dare il saldo. Allora, sono delle battute perché lui è un istrione. Ora, sì, Donadelli ma anche perché ha subito chiamato in banca e si è fatto dare il saldo. Si è fatto ricordare qual è il saldo, non c'è niente di male. Nel caso di Reina avrà fatto la stessa cosa, così come l'ha fatta negli anni scorsi con la Vecchia, poi l'ha fatta con Cavani. I personaggi sono diversi, sai, può esserci chi se la prende. Ognuno assorbe questa reattività del presidente in maniera diversa. Questa incontinenza verbale l'abbiamo spesso chiamata. A volte sì, bene a chiamarla incontinenza. Ma poi io, De Laurentiis, io un presidente che adoro, c'è un personaggio che adoro, quindi tu lo sai benissimo e lo dico pubblicamente, non mi importa, sì. Insomma, a me piace De Laurentiis, nonostante l'incontinenza verbale certe volte lo porta a dire delle cose strane. Senti Raffaele, l'ultima cosa che ti chiedo invece è seria, estremamente seria. Allora, come miglioriamo questo Napoli? Non è facile. Lo so, non dirmi non è facile, perché questo lo sappiamo. Non perché è facile, profondo è profondo. Non è facile, ma può essere semplice. Dimmi. Dico, non è facile perché se immaginiamo il potenziare il Napoli acquistando calciatori, devi prendere quelli che costano, come ha detto Sarri, 80, 90 e 100 milioni. Se lo vuoi realmente potenziare, così come la parola esprime, ma se invece vuoi andare avanti lungo il progetto che stai portando su da 2-3 anni, l'unico modo per rinforzare il Napoli è tenerlo così com'è, perché la squadra è forte, lo ha dimostrato dal girone di ritorno in poi, e perché indubbiamente questa mi sembra che sia l'operazione che si sta facendo, no? Con il muro del Monte Salari abbattuto, e mi sembra che è questo. Bravissimo. No? Allora, che è questo che sta facendo. Invece di spendere 40 milioni per comprare calciatori che chissà se funzioneranno, aumenti il monte ingaggi di 40 milioni. Sì. Ed è perfetto, mi sembra una splendida idea. Mi sembra una splendida idea. Ma così com'è, il Napoli potrà sfidare la Juventus dell'anno prossimo? Io ci stavo arrivando, perché così com'è il Napoli, secondo me, l'anno prossimo partirà col piede giusto, è una squadra già pronta. Sì. La Juventus, dopo aver vinto praticamente tutto, perché immagino che vinca anche la Champions, avrà tutta questa forza. Noi abbiamo visto nelle ultime 3-4 partite la Juve senza forti motivazioni, non è questa. No, i calciatori, questo... i calciatori simbolo avranno un anno in più. La Roma è in fase di stravolgimento, un nuovo allenatore dovrà vendere qualcuno. Milan e Inter, che sono all'alba di un nuovo percorso dopo aver vissuto anni d'oro con le famiglie Moratti e Berlusconi, chi è la squadra più pronta? Il Napoli, ma non c'è dubbio, la risposta, la risposta è scontata. No, allora Raffaele, facciamo così, prendiamo un altro appuntamento pubblico e sì? ne parliamo con calma, perché adesso sono di corsa, come ben sai, i tempi radiofonici. Grazie Raffaele Auriemma. Allora io vado per chiudere dal mio amico Vincenzo Martucci, perché questa io da napoletano però una cosa la devo dire, scusa, per forza sono andato a Napoli, cioè io un bel centrocampista esperto alla Fabregas lo prenderei, la Fabregas, sì, Fabregas, sì, e poi dopo c'è il Napoli anch'io. Attacca solo da una parte, prenderei un terzino fluidificante dall'altra parte, perché attacca solo da un lato, quindi io due un acquisti paio, farei. Un paio di detto, acquisti, ma penso che verranno fatti. Detto questo, passiamo a te. No, passiamo a Zverev, che tu l'altro giorno mi è rimasta impressa, mi avevi detto, io ho detto stella nascente, e tu mi hai detto stai calmo, e io mi fido del professore, mi fido del professore. Ma io ho ancora le mie perplessità, perché sulla terra battuta questo qui così io ho le mie perplessità, perché secondo me Djokovic era molto stanco dopo aver giocato quelle due partite il giorno prima, era un po' appagato, cioè aveva dimostrato a se stesso e agli altri che era sulla retta via. Si è trovato questo ragazzino che l'ha preso a pallate, è un po' irreale come situazione, cioè un grande difensore che viene preso a pallate in quel modo sulla terra, secondo me bisogna sempre fare la tara, primo, secondo, il 2 su 3 è un altro sport rispetto a 3 su 5 che si giocherà a Parigi, quindi io personalmente mi tengo le mie perplessità su Zverev sulla terra rossa, certo. L'impressione che ha dato era la stessa impressione che me l'ha dato Becker quando a 17 anni vince Wimbledon, cioè la stessa studoratezza. A proposito di Becker e sull'idea di Djokovic di riprendersi Agassi come allenatore, Becker dice, lo so che non sei d'accordo, penso sia una scelta eccellente la personalità e il carattere di André e il fatto che sia coinvolto nella fondazione di Nova, che è molto importante, eccetera eccetera. Sì, beh certo, chiaro, lui che può dire, perché se dice adesso che l'altro è sbagliato dimostra ancora di più che insomma che gli rode, come si direbbe a Roma, sì. Ma gli rode tantissimo. Io, guarda, devo dirti la verità, io credo che un giocatore come Djokovic non avesse bisogno né di Becker né di Agassi. Lui indubbiamente ha bisogno di un punto di riferimento, appunto il grande campione che gli dà questi stimoli, sicuramente gli dicono qualcosa, però tecnicamente non ha bisogno nessuno dei due, tant'è vero che se tu vedevi quando andava in campo, lui si allenava con Baida, perché sì, quello sì, è il giocatore, cioè è più una cosa di guru, di punto capisco, di riferimento, ho capito la coperta di Linus, capito? Ti ho capito perfettamente, la coperta di Linus, intanto aspettiamo sia lui che Mare che Zverev a Parigi, che loro Mare per esempio è irreale, capisci, cioè come situazione, con tutti i progressi che aveva fatto l'anno scorso, adesso all'improvviso non sa più giocare sulla terra, è chiaro che anche lui sta aspettando la sua coperta di Linus, Lender che arriva e gli dice ma come fai a tirare il dito in quel modo, come fai a giocare tutto indietro, ma passiamo avanti, glielo dice Lender, insomma, e cambia tutto. Una valigia di coperte di Linus per andare verso Parigi, ma e ci andremo con te Vincenzo, tieniti libero con Sportsnators. Grazie, ciao Vincenzo. Grazie Martucci, voi, ciao, così chiudiamo questo programma. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Domani ci spostiamo a Bologna da Dasso Promotec, potete venirci a trovare, eh? Io e De Luca abbiamo già i biglietti del treno, tutto quanto, trasmetteremo in diretta da lì, vi aspettiamo. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!